La cedolare ha avuto anche una gestazione molto lunga perché era inserita nel decreto legislativo sul cosiddetto federalismo municipale, quindi poi è diventata operativa soltanto ad aprile del 2011. Sostanzialmente come funziona? Anziché pagare sui redditi che io ricavo da un affitto, diciamo di una casa, perché riguarda solo le locazioni abitative affittate a privati, allora. Quindi in questo caso addirittura gli Sì, studenti, certo, gli studenti rientrano pienamente nella possibilità di perché un beneficiare della ascoltatore ci cedolare. diceva che fanno parte di una tipologia diversa e non possono dunque richiedere No, la no, cedolare secca. Invece sono molti locazioni l'hanno. abitative. E il punto forte della cedolare è che, appunto, anziché pagare su questi redditi la normale IRPEF ad aliquota marginale, che quindi può variare dal 23 al 43%, io pago invece un'aliquota fissa, che è del 21% per i contratti a canone libero e del 19% per i contratti a canone Diciamo concordato. intorno al 20. Sì, sostanzialmente sì. Un'aliquota fissa intorno al 20%, questo doveva Ma non è rivelarsi in finita qualche qui. modo conveniente. E poi c'era la parte che riguardava gli inquilini. Attenzione, non è finita qui, perché questa aliquota, oltre ad assorbire l'IRPEF, assorbe Sì. anche le addizionali all'IRPEF, quindi comunale e regionale, l'imposta di bollo e l'imposta di registro. Quindi lo sconto viene ad essere abbastanza sostanzioso per il proprietario. Sulla carta almeno. Sulla carta, ma anche nei fatti. Poi ci sarà da chiedersi perché è stata fatta da meno persone di quelle che aveva preventivato il governo, ma questo Doveva è un far altro. entrare 2 miliardi e 6 nelle casse dello Stato. Esattamente. Poi, se andiamo a vedere cosa è successo nel 2011 con i versamenti d'imposta, vediamo che sostanzialmente, considerando che il saldo viene pagato adesso in questa fase, quindi i dati non sono ancora proprio definitivi, Più o meno, difficilmente però una tendenza c'è. non si andrà sopra il miliardo. La norma era, ed è tuttora, insomma, molto, molto rigida. Cioè, se c'è un contratto d'affitto non registrato, oppure un contratto d'affitto che è stato registrato ma per un canone mensile più basso di quello reale, o ancora se è stato registrato un finto comodato, cioè se Sì. io ho fatto finta di darti in prestito la casa, l'inquilino può denunciare il proprietario e ha diritto per 4 anni rinnovabili di altri 4 a un affitto bassissimo, perché è commisurato praticamente al triplo della rendita catastale, che vuol dire, detto in soldoni, tra il 70 e l'80% in meno rispetto ai valori di mercato, quindi i 1000 euro diventano 300 o anche 200. Perché questo non ha funzionato? Perché il meccanismo è complesso, perché è ancora in fase di rodaggio.